Quindi abbiamo tante immagini di personalità anarchiche, quindi tutti quei fenomeni di bullismo che vengono registrati, o al contrario personalità che di fronte alla costatazione del senso del limite in qualche modo lo vivono con frustrazione, e quindi abbiamo tanti altri casi di suicidio. Ecco, senza arrivare a questi elementi, diciamo così, un po' estremi, però senz'altro vale la pena soffermarsi su quello che è l'importanza del ruolo del padre proprio nella costruzione di personalità forti. E allora abbiamo qui il professore Giovanni Di Rosa, che è un avvocato cassazionista ed è professore ordinario di diritto privato presso l'Università degli Studi di Catania, però è anche un professore che ha sviluppato tante altre competenze proprio in relazione alla formazione dei figli e soprattutto alla formazione in seno alla famiglia. Il professore Di Rosa è sposato con Emanuela, che è qui presente tra il pubblico, ha tre figli ed ha collaborato sin dal 1996, unita insieme alla sua moglie, proprio alle attività di orientamento familiare, in precedenza collegate al FAIS, per tramite del centro scolastico Licatia, che aveva sede a Catania, ormai non c'è più, di cui il professore Di Rosa è stato collaboratore, è stato proprio consulente, ecco, per diversi anni. È attualmente presidente dell'OF, quindi Orientamento e Formazione Famiglia e Società di Catania, un'associazione locale coordinata con il centro OF di Milano, di cui è la sede centrale, oggi iscritta nel circuito Sistema Famiglia Italia, che formalmente è nata di fatto nel 2004 proprio per centralizzare, ecco, per convogliare tutta una serie di forze intellettuali operative che proprio in riferimento alla famiglia erano state di fatto messe in atto grazie alla collaborazione di tante coppie.